Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Renato Brunetta, 63 anni, veneziano, sotto scorta dal 1983 per le minacce delle Brigate Rosse. Ministro per l'innovazione della pubblica amministrazione dal 2008 al 2011. Famoso per il decreto antifannullone della pubblica amministrazione. Nato in una famiglia povera, di sé ha detto: sono orgoglioso di essere figlio di povera gente. Sulla strada ho imparato tutto. A casa mia non c'era un libro, io studiavo greco di nascosto di notte. Professore ordinario di economia politica all'Università di Tor Vergata di Roma, ha detto anche: potevo concorrere al premio Nobel, ma ha vinto la passione politica. Oggi è il capogruppo PDL alla Camera e nel partito di Berlusconi è il capo dei falchi. Onorevole Brunetta, lei parla sempre chiaro, è famoso per quello. È finita l'unità del partito? No. Ma se i filo governativi faranno il gruppo autonomo, cosa capita? Non faranno gruppo autonomo. È sicuro? Assolutamente sì. Perché? Perché consentirebbero la vittoria della sinistra e questo non se lo può permettere nessuno all'interno di Forza Italia, PDL. E quindi con i suoi 15 senatori Schifani sta con Berlusconi, non con Alfano? Assolutamente sì. E Alfano senza quid e senza partito che fine farà? Alfano sta con Berlusconi. Quindi non fa la fine di Fini? Assolutamente no, è cosa ben diversa da Fini. Lei cosa ne pensa di Alfano? Alfano è un mio amico. Senta, ma allora falchi e colombe sono un'invenzione mediatica o una realtà? Come diceva Napoleone, Bonaparte. Ah, Bonaparte. E anche Marina Candidata è Bonaparte invenzione mediatica? Assolutamente sì. Solo Bonaparte o tutta? Bonaparte. Bonaparte, quindi resta aperta la possibilità di Marina Candidata. In Francia, però, si è arrivati ad avere tre gruppi politici che facevano riferimento a De Gaulle. Adesso, a parte il confronto, ma non potrebbe capitare anche del PDL una dialettica? Disuniti si perde. Sì, ma le correnti, per esempio, la DC ci ha insegnato, otto correnti, mi sembra. Non ci sono mai state correnti dentro Forza Italia PDL. E quindi deve essere o monolitico o niente? Deve essere insieme. Quindi monolitico, diciamo. Insieme. È più bello. Monolitico più bello. Non mi piace. Non le piace. Vabbè, la democrazia per un po' di dialettica la richiede. Ma le pare che non ci sia dialettica all'interno PDL Forza Italia? Ci avevano definito di plastica, altro che plastica, questo è Moplen. Senta, ma... Polipropileno isotattico, Natta, premio Nobel. Ricordiamo, senta, ma per la decadenza di Berlusconi da senatore, si voterà a scrutinio segreto o palese? Le regole dicono segreto e non si cambiano le regole a partita iniziata. Ma chi lo decide? Lo decide il Senato, i senatori, il regolamento, non si cambia il regolamento a partita iniziata. Ma quindi non è il Presidente del Senato? Assolutamente no, per carità. E quindi lei preferisce se lo scrutinio segreto? Le regole sono queste. Si dice che con lo scrutinio segreto Berlusconi ha più possibilità. Ma vede, ha paura dello scrutinio segreto, sa chi? Chi? Il Partito Democratico, perché se si votasse, se si voterà, quando si voterà a scrutinio segreto, e se passasse la libertà di coscienza, e cioè Berlusconi non decaduto, si spacca il Partito Democratico. Senta, lei quindi preferisce lo scrutinio segreto, ovviamente. E io preferisco rispettare le regole. Non si cambiano le regole a partita iniziata. Senta, si cambiassero per caso, col voto palese sarebbe il PDL a scoppiare? No, il PDL sarebbe assolutamente unito. Sicuro? Sicurissimo. Mamma mia, granitico lei. Assolutamente. Senta, sì. C'è una possibilità che all'ultimo momento invece Berlusconi si dimetta prima del voto? No. È sicuro? Arcisicuro, per una semplice ragione tecnica, che i ricorsi all'Unione Europea presuppongono un vulnus e il vulnus non presuppone le dimissioni. Quindi, cioè, per tradurlo, per potersi appellare all'Europa, Berlusconi non si deve dimettere. Deve così. Essere dimissionato. Dimissionato. Senta, mi sembra molto chiaro. Chiarissimo. Berlusconi però ci ha abituati ai colpi di scena dell'ultimissimo momento, come al momento della fiducia. A Letta anche lei era coinvolto, sentiamo. L'opzione di votare la sfiducia al governo è stata assunta all'unanimità dei presenti. Per controprova, l'opzione di votare la fiducia non ha ottenuto alcun voto. Ne deriva che, per quanto riguarda il gruppo parlamentare del Senato, all'unanimità si è deciso di votare la sfiducia al governo Letta. Berlusconi invece neanche un'ora dopo annuncia: abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Si è sentito umiliato? Assolutamente no. Perché? Nel senso che ho certificato... Era una sceneggiata? No, lo spiego. Ho certificato quello che era stato deciso nella conferenza del gruppo, sì, dei senatori, salvo che nel tragitto tra l'aula dove c'era stato il gruppo e l'aula del Senato, sì, Berlusconi, no, Berlusconi ha avuto sott'occhio un elenco di 23 senatori che avevano firmato per la fiducia. Cosa, e quindi ha cambiato idea. Novità, e quindi Berlusconi, sulla base di questa informazione, novità, come che dire, lei non aveva, piuttosto, insomma, non era... piuttosto scorretta, sì, devo dire, d'accordo, perché i 23 non hanno partecipato alla riunione del gruppo, ha cambiato linea e forse ha avuto ragione lui. Quindi non è stata una sceneggiata fra di voi? Assolutamente no. Senta, Letta però dice che anche senza Silvio lui ha la maggioranza, è un ottimista ingenuo? Sì. Ma in attesa della votazione, lei personalmente, la durata del governo, dovendo scommettere, a quanto la dà? Dipende dalla gittata. Fino a domani è al 100%. E poi decrescere? E poi... il 5%? Ma a quanto bisogna arrivare? Allora, per bisognerebbe arrivare al 5%? Chiederlo a Renzi. No, ma io lo chiedo a lei. Renzi ieri ha rottamato Letta, ha rottamato, sì, Alfano, ha rottamato Napolitano, tanto per essere chiari. Va bene, perché questa... ha detto mai più larghe intese, sì, mai, sì, più, ma... col PDL, eccetera, eccetera. Quindi... ok, Renzi ha anche aperto sulla giustizia. Ha detto che non è più un tabù per la sinistra. Ha chiesto la riforma della giustizia. Sì, però parlando solo di Scaglia e non parlando di tutti. Vabbè, evidentemente la giustizia selettiva. Silvio. Si chiama Silvio anche Scaglia. Sì, allora, diciamo, allora va bene. La giustizia, vede, non si usa contro qualcuno. La giustizia è per tutti. Senta, comunque è aperto. Non avevano mai aperto sulla giustizia il PD. Senta, conservare la stabilità, però, ha portato la Spagna a riprendersi. Non è un buon esempio. C'è stabilità e stabilità, c'è anche la stabilità della morte. Ricordiamolo. E noi, allora, sì, la stabilità, siamo nella stabilità, la della stabilità morte. Per fare crescita, per fare sviluppo, per fare riforme è cosa buona. La stabilità per non fare niente o per aumentare le tasse e aumentare i dipendenti pubblici è una stabilità che fa male. E quindi questo governo il 100% domani, dopodomani stiamo già al 50%. Ma vede, se questo governo cambia la legge di stabilità, e ci arriviamo, per esempio, e poi ne parliamo, sì, questo governo governa e quindi i governi sono fatti per governare. Ecco, parliamo di numeri. Oggi ci sono 4 milioni di disoccupati, grosso modo. In borsa negli ultimi 10 anni le banche sono passate da 214 a 61 miliardi di capitalizzazione. Ormai sono più o meno tutte scalabili. È un bene? No. E allora, se parliamo di fare cassa per sistemare i conti, lo dice anche Letta, si può privatizzare molto. La quota Snam dello Stato vale 3 miliardi, Etern 1,5, con l'Eni si arriverebbe a 17 miliardi, questa è la strada. Ma vede, vendere i gioielli di famiglia può anche essere utile se si ha un progetto. Sì. Vendere i gioielli di famiglia per pagarsi cibo, stipendi, e bevande e stipendi vuol dire è l'anticamera del suicidio. Ecco, ma con le aziende non quotate però si potrebbe, si dice, arrivare a 50 miliardi. Io sono per un'altra linea, che è quella di vendere le cosiddette public utilities, le ex municipalizzate, che sono il capitalismo locale. E quanto farebbe quello? Ah, beh, decine e decine di miliardi di euro che andrebbero agli enti locali e quindi alleggerirebbero i conti degli enti locali. Quindi, vendere le case pubbliche, 2 milioni di case pubbliche, sì, farle riscattare dagli inquilini, sì, e sì, anche quelli sarebbero 10, 12, 15 e miliardi di euro. E partire da una privatizzazione che vendere parte dal locale. Vendere quello che non serve, vendere l'Unione Sovietica in Italia. Qual è l'Unione Sovietica in Italia? Beh, le municipalizzate. Le par possibile che una municipalizzata fornisca servizi a un comune il quale comune è proprietario di quella municipalizzata? L'ha detto, controllore controllato, meglio di no. Senta, nel governo, almeno sull'IMU sembrava che aveste trovato un accordo. Adesso non si capisce più niente. Senta il nostro tormentone che mandiamo tutti i giorni fino all'approvazione della legge di stabilità. L'anno prossimo non si pagherà più l'IMU e nemmeno la TARES, che doveva sostituire la TARSU. Ci sarà una nuova tassa che non si chiamerà TASER, come la pistola che dà l'elettroshock, ma TRISE. Il fatto è che la TRISE, come un missile a tre stadi, contiene altre due tasse, la TARI e la TASI. Se abitate nella vostra casa, pagate tutta la TRISE, dunque sia la TARI che la TASI. Se siete un inquilino, pagate solo la TARI, ma anche una quota della TASI. Se siete il padrone di casa, pagate la TASI, ma non la TARI. Più IMU, si capisce. Ma l'IMU, raddoppiata, la pagate anche se siete in affitto su quell'appartamento dove abita vostra madre, che però pagherà la TASI, lasciando a voi la TASI che avete evitato sulla casa dove pagavate la TARSU. E invece ora, scampata la TARES e aggirata la TASER, pagate solo la TARI, ma non l'IMU. Adesso ripetete. Capace di ripetere? Le do una spiegazione numerica. Sì. Nel 2012 con Monti abbiamo pagato di IMU 24 miliardi. Nel 2013, se verrà cancellata la seconda rata, pagheremo 20. Con la service tax di Letta rischiamo di pagare 30. Arridateci l'IMU di Monti. Ah, ecco, quindi diciamo non abbiamo sbagliato tanto. Assolutamente. Mi pare no. Che allora, avete per questo, perso, insomma. No, no, non abbiamo perso. Si paga di va più. Va cambiata. A oggi si paga di più. No, a oggi, beh, l'ha detto a lei. Oggi siamo in presenza di un disegno di legge, non sì, decreto ok, legge. Ma dico a oggi, per cose, come sta va il disegno cambiata. Di... Va bene. Se questa rimarrà, se no, noi se non no, ci stiamo. No, perso. Noi non ci stiamo. Okay. No, noi... Uscite dal governo. Assolutamente sì. Bene. L'IMU deve tornare all'IMU del 2013. Perfetto. La service tax deve essere 20 miliardi di euro, al non massimo. 30. Va bene. Squinzi, presidente della Confindustria, a proposito di cambiare la legge, dice che questa legge di stabilità fa schifo. I sindacati scioperano. La Camusso dice che è un governicchio questo di Letta. Allora è un governicchio. Siamo sempre nella prospettiva, 2 giorni, 3 giorni, 30%, 20%. Loro dissero così. Senta, ma questo quadro delle larghe intese, che cosa voglio dire a questo punto? Le larghe intese che... Le ha volute Berlusconi, probabilmente il PD non le ha mai volute. Renzi è stato onesto a dire che mai più larghe intese. E in questo modo ha rottamato Letta, Alfano e Napolitano. Senta, ma il presidente Napolitano, appunto, che le ha voluto con tutta la sua forza, se saltano le larghe intese, che fa? Farà il presidente della Repubblica. Continuerà a fare il presidente della Repubblica secondo quanto prescrive la Costituzione. Quindi, ma Napolitano, secondo lei, ha troppo potere o semplicemente copre un vuoto della politica? La Costituzione italiana prevede per il presidente della Repubblica poteri a geometria variabile. Quando la politica è forte, il certo. Suo perimetro è corto. Quando la politica è debole, il suo perimetro è largo. È perfettamente in linea con la Costituzione a e geometria quindi variabile. Quindi il perimetro c'è tanto spazio. Per c'è lui, tanto insomma. Spazio perché la politica, politica non è debole. C'è. Ecco. Il Fondo Monetario comunque intanto suggerisce per l'Italia una patrimoniale del 10% sui conti correnti. Ci tocca anche questo. Mai seguire il Fondo Monetario. Mai. Dice non... tante balle. Consigli sbagliati. E beh, poi soprattutto quando il Fondo Monetario viene seguito da De Benedetti, peggio mi sento. Senta, vabbè. Senta, ma perché... Lei non ha fatto allora Ministro del Tesoro? Non l'ha fatto. Sono troppo libero e non dipendo da poteri forti. Senta, ma lo sa che mentre la legge di stabilità blocca pensioni e stipendi alla Banca d'Italia, per gli stipendi continua la contrattazione? No passaran. Però continua. No passaran. Quindi non va bene così. Io già 20 anni fa mi opposi a questa eccezione della Banca d'Italia e vinsi allora. Va bene, pensa di rivincere. La Banca d'Italia non sia la Banca d'Italia, non sono i figli dell'Oca Bianca. Lei ha detto, ho molti amici che hanno vinto il Nobel, non sono più intelligenti di me. Voleva il Nobel. Quando però, uno so si deve porre, non... come disse Woody Allen, uno deve avere pure qualche obiettivo. Senta, ma su cosa voleva vincerlo il Nobel? Ma avevo una teoria molto bella, quella dei beni relazionali. Un giorno gliela vabbè, spiego. Vabbè, sa che è un po' lunga. Senta, ma della sua durissima infanzia, di cui abbiamo parlato... Non è stata scheda, durissima, no? È stata un'infanzia, come dire, non ricca, ma non durissima. Ah, no, no. E che cosa le è rimasto dentro di importantissimo? Il lavoro. Cioè il primato del lavoro. L'etica del lavoro, l'esempio di mio padre e di mia madre, dalla mattina alla sera. Lavorare. E anche oggi, quando torno a casa tardi, stanco, eccetera, mi dico tra me e me, e anche oggi mi sono guadagnato da vivere. Senta, Befera, qui, in trasmissione, ha detto... Befera è uno bravo, eh? Ha detto, pensa, senta cosa ha detto uno bravo. Dice che per fare cassa i tagli alla spesa pubblica sono molto più importanti della lotta all'evasione. Perfetto. È d'accordo? Assolutamente sì. Senta, ma è possibile allora che, a proposito di tagli, che con 36.000 centri di spesa che allo Stato si taglino sempre solo salari e pensioni? Questo è un gravissimo, tragico errore e purtroppo questo governo e questo ministro non hanno messo in piedi nessuna riforma per cambiare questa questo situazione inaccettabile del tesoro, dice, dell'economia e delle finanze. Dell'economia e delle finanze, cioè va bene, bocciato. Senta, lei è favorevole come Fassina all'evasione di sopravvivenza? Ma guardi che Fassina è un giovane economista. Fassina ha studiato sui miei libri. Vabbè, quindi ma favorevole. Perché mi deve dire? Siete d'accordo? No, lui è d'accordo con me. Va bene. L'ha copiata? Sono anche un po' più vecchio di lui. L'ha copiato? Lui è un giovane funzionario della presidenza del Bravo, Consiglio. Bravo, però mi sembra che andiamo abbastanza d'accordo. No? Devo dire, ha le sue idee e le fa valere. Senza Tarak Ben Ammar, qui l'altro giorno, ha detto che alla scadenza della convenzione del 2016 la RAI potrebbe essere privatizzata come già capitato in Francia. Senta esattamente cosa ha detto. Cioè, senta, la RAI nel 2016 scade la convenzione con lo Stato che gli affida in esclusiva il canone. Ecco, secondo lei in quel momento potrebbe essere privatizzata? Io penso che sarà una cosa molto positiva privatizzarla come ha fatto la Francia con TF1. Così la politica esce fuori dalla televisione, che è un grande problema. Ovviamente poi per rinnovare la concessione dovremo vedere voi italiani che linea editoriale il servizio pubblico dovrebbe avere. E a questo punto, se la RAI è vendibile, siamo qua. Ecco, adesso... Lo dice anche il ministro del Tesoro Saccomanni, che lei però ha bocciato. Lei è d'accordo con Tarak? Eh? Ma veramente io sono d'accordo con gli italiani che tempo fa in un referendum votarono per la privatizzazione progressiva della RAI. Ecco, però il direttore generale della RAI, Gubitosi, ha detto che lei ha spaventato Crozza con l'attacco al suo compenso che ha fatto l'altro giorno e così ha fatto un danno alla RAI e un piacere a Mediaset. Ridicolo. Se un'interrogazione parlamentare fa saltare un contratto, delle due l'una, o il contratto era oscuro e doveva saltare, o se il contratto era un buon contratto, Gubitosi aveva il dovere di portarlo a termine. E sarebbe da citare per danni Gubitosi, perché è così... Cioè l'autonomia del manager fa sì che decide lui. E se il contratto era buono, perché non l'aveva firmato? Ecco. Ma è possibile che un'interrogazione parlamentare in commissione di vigilanza faccia saltare un contratto? C'è qualcosa che non va. Senta, Gubitosi. Beh, questo bisogna chiederlo a Gubitosi. Ma lo chieda lei, che è uomo di esperienza. Io penso che Gubitosi, se vuole, qui può venire a fare un faccia a faccia quando vuoi, ne parliamo a fondo con lui. Comunque, Gubitosi è nominato dalla politica. È nominato da Monti, un capo di partito. No, allora era addirittura presidente del consiglio tecnico. Insomma, dopo è diventato poi capo ha fatto di un partito. Sì, ecco, e dice fuori i partiti della RAI. Beh, un po' di contraddizione c'è. In Gubitosi le contraddizioni sono molteplici. Sì. Senta, ma con la legge Gaspari che fa dei partiti gli azionisti a RAI, come si fa a dire, insomma, a pensare una cosa del genere? Forse sarebbe bene, ma è difficile farlo. Senta, perché non lasciarlo lavorare in pace fino alla fine del mandato? Ma io ho, e poi giudicarlo. Io ho un compito, sono in commissione di vigilanza. Finché c'è la commissione di vigilanza, di vigilanza vigila. Ma siamo matti. Senta, lei ha attaccato anche Fazio, prima per il suo contratto, poi perché non ha reagito a Maradona. Ma in diretta un conduttore può anche sbagliarsi una volta in tanti anni. Io voglio la trasparenza. C'è una legge del 2009 che è una mia legge. C'è d'accordo. Il contratto di servizio attuale. No, mi lasci dire, l'attuale contratto di servizio prevede la trasparenza. Io non ho attaccato nessuno, io voglio solo che vengano pubblicati. No, ma questo stiamo parlando di Maradona. I compensi, arrivo anche a Maradona, io voglio che siano pubblicati i compensi di tutti. E per quanto riguarda Maradona, Fazio, vede, è un pastore di coscienze, uno che va in televisione e si porta... Ha fatto un errore, lo scusi anche il Papa, dice che bisogna bisogna scusare, ha chiesto scusa, lo scusi, dica che lo scusi, ai pastori, ai finti pastori di coscienze, bisogna essere rigorosi. Senta, allora, rigore per rigore. Bruno Vespa guadagna 6 milioni di euro in 3 anni, 6 milioni e spiccioli. Va bene invece per lui. È come Fazio. Cioè? Inaccettabile come Fazio. Quindi, io questo l'ho denunciato, questo l'ho denunciato già alcuni anni fa, prendendomi le ire di Vespa, naturalmente. Quindi i milioni di Fazio di Crozza sono uguali a quelli di Vespa? Assolutamente sì. Allora, battaglia contro il no, lo stipendio tra, di Vespa, prima uguale. Di tutto trasparenza, secondo poi giudichino gli italiani se quei d'accordo. 2 milioni all'anno sono giustificati o no in tempi di crisi. Senta, il presidente Napolitano, che ha fatto della riforma elettorale uno dei suoi cavalli di battaglia, può accettare che la legge elettorale non si faccia? Non è compito del Presidente della Repubblica decidere sulla legge elettorale. Ma le larghe intese, secondo lei, sapranno fare almeno la legge elettorale oppure ma no? Vede, sì o no? No, nel senso non che... Non la faranno? Nel senso che i partiti, il governo, il Parlamento decidono autonomamente se fare la riforma o no. Vabbè, e insomma, lei il dice Presidente non Napolitano, si farà. Il Presidente Napolitano, come sottoscritto, sono stati eletti sì, sulla però, base di questa legge elettorale, d'accordo. Lo sa lei? Ok, quindi secondo lei la legge elettorale non si farà. Mi pare di deciderà capire, deciderà sì, il Parlamento. Ma cosa decide? Lei è uno che parla chiaro. Deciderà lo sa, il Parlamento. Nessuno può imporre al Parlamento alcunché in un regime democratico. Ma, senta, ma senza l'accordo di Napolitano, Berlusconi come pensa di andare alle elezioni anticipate perché le Camere deve eventualmente sciogliere Napolitano? Ma sa, la Costituzione è chiara in questo caso. Se c'è una maggioranza possibile, il governo c'è. Se non c'è una maggioranza possibile, il Presidente della Repubblica è obbligato a sciogliere le Camere. Non può capitare che se Forza Italia fa cadere il governo sulla votazione su Berlusconi, Napolitano potrebbe rinviare letta alle Camere. Napolitano più è volta. Persona saggia e conosce quindi bene la Costituzione. Non pensa che si farebbe mai. È persona saggia e conosce bene la Costituzione. Gli hanno detto che lei parlava molto chiaro, però mi sembra super prudente. No, assolutamente no, sì. Nel senso che la Costituzione è molto chiara. Se c'è un governo, una maggioranza per governare, si va avanti. Se non c'è, si sciogliono le Camere. Letta dice che c'è. Lei dice che è vedremo. Vedremo. Senta, dopo quello che abbiamo detto, sono passati 23 minuti, le rifaccio la domanda iniziale. Quanto scommette sulla durata del governo Letta a 3 mesi? Se cambia la legge di stabilità e se Berlusconi non viene violentato nei suoi diritti civili e politici, molte possibilità. Quindi quando si vota su Berlusconi si decide tutto. Ma penso che sia di buon senso. Sì, come sì, si no, può no, stare al governo con chi ti ammazza il leader? Grazie. Mix 24. C'ho l'anni del cu come scrocchiano l'ossa, so vecchio bagucco, sto in pizza la fossa. Si faccio le scale, ci arrivo sfiatato, se provo a chinarmi rimano piegato. So mezzo ciecato, mi guardo allo specchio, per quello che vedo son povero vecchio. So vecchio, so rotto, non sforzo e davvero c'è il caso sicuro che qui faccio il botto. Ma da qua non mai guardato. Pietrangelo, eccomi. Pietrangelo. Ecco. Veramente Sara Tardelli preferiva Lou Reed oggi che è morto. Tu perché hai scelto questa? Ho scelto questa perché se n'è andato Gigi Magni. Lou Reed sarà cantato da tutti, sarà ricordato dall'intero mondo. E noi che invece ci preoccupiamo dell'universalità, facciamo un omaggio attraverso le parole di Numa Pompilio in un meraviglioso spettacolo, I 7 re di Roma di Gigi Magni. E quindi ci affidiamo questa. A questa bella voce di Proietti che racconta Gigi Magni. E che titolo faresti dell'intervista di Brunetta? Ah, Vespa è come Fazio, inaccettabile. Mario Secchi, tu? Buongiorno, ciao Mario. Buongiorno. Ciao Mario, tu il titolo? Ha detto un sacco di cose interessanti. Però di Brunetta mi colpisce sempre il fatto che è roccioso, quindi cercherei di trovare un titolo che lo sintetizza, che potrebbe essere Il Sasso. Il Sasso, Brunetta, Il Sasso. Però dice sempre assolutamente no, bisogna dirglielo che non si dice assolutamente o no. No, o no, o assolutamente, perché cioè... poi se avete notato anche un bel lapsus, se ne accorge Berlusconi sono guai. Perché ha detto forse ebbe ragione. E che? Forse. Ha forse, detto forse ebbe ragione. Ma certo, forse è pericoloso. Forse è pericolosissimo. Ecco, siamo in diretta a Mix 24. Vi ricordo che il nostro numero è 800-2400 per gli sms 349-238-6666. Siamo andati un po' lunghi con l'intervista. Mario, andiamo con le bolle. Subito le bolle e la sigla. Grazie. Allora. Ma... caro Giovanni e cari ascoltatori, ma Obama sapeva o non sapeva perché la National Security Agency dice che Obama non sapeva che Angela Merkel era spiata. E però oggi la stampa tedesca scrive che in realtà l'autorizzazione veniva dal presidente in persona. Per me è buona la seconda, per te? Beh, insomma, un po' difficile fare il presidente degli Stati Uniti e non sapere cosa fanno i tuoi servizi segreti. Mi sembra molto difficile. Vabbè che al Nobel per la pace, però. Sarebbe interessante capire anche cosa ne pensano i nostri ascoltatori. E infatti, no? Se è buona detto, la prima noi, o la seconda. Noi abbiamo chiesto 800 24 00 24, 349 238 6666, per chi ha qualcosa da dire a proposito. È possibile che il presidente degli Stati Uniti non sapesse? Intanto andiamo avanti con le nostre domande. Oh, e poi è Marina, perché insomma Brunetta qua ha parlato appunto dell'unità del partito, forse il governo cade, non lo sappiamo, eccetera, però non ha smentito, no. Ha detto A metà. Una possibilità è proprio aperta su Marina, l'ha lasciata. Esatto. E il fatto che l'abbia tenuta aperta lui, secondo me, è abbastanza significativo, perché, come sapete tutti, Brunetta, insomma, non era tra quelli, diciamo, entusiasti. E però si sprecano in retroscena sulla discesa in campo della figlia di Silvio. Stamattina c'è un lungo articolo su Repubblica, la cui lettura si rimanda. E la realtà è che non c'è niente di deciso, ma la questione del marchio, perché questo è, certo, Berlusconi esiste, chiaramente bisogna decidere anche qua che cosa l'uso del marchio. Ci abbiamo un sms di Giorgio da Cuneo che dice: a Brunetta gli dovete sparare in fronte, non farlo parlare. Ecco, questo non è la nostra linea editoriale. La nostra linea editoriale è che facciamo parlare tutti, assolutamente tutti. Caro Giorgio, andiamo avanti con le bombe. Allora, sorvoliamo. Iran nucleare, invece, noi sai, seguiamo sempre questo tema da quando abbiamo iniziato la nostra trasmissione. C'è un incontro programmato a Vienna tra i rappresentanti del governo iraniano e l'Agenzia Nucleare Internazionale. È un tema fondamentale della contemporaneità, perché la domanda è molto semplice ma basilare. È nucleare civile o militare? Certo. Il rebus è tutto qui. Buttafuoco, ecco. cosa, perché lo vedo agitarsi. Vabbè, si parla di Iran. C'è un fremito, subito un fremito. Cosa c'è? L'anima persiana salza in volo. Come un'aquila. No, come un tappeto volante. Ecco, le immagini sono più poetiche. C'è un sms di Giuseppe che dice: considerato il paese, l'Italia, la sua classe politica tutta, io mi sento più tranquillo di molto se l'NSA ci tiene tutti sotto sorveglianza. Questo è un tema. Ecco, questo non è male. Io ho fatto una battuta stamattina ridendo, ma ci si riduce come prodotti in un supermercato, tutti catalogati, tutti controllati, tutti a scadenza. Guarda, hai scaduto, è diventato un terrorista. Ho fatto una battuta, mi perdonerà, mia suocera, ho detto: ma io mi sento più tranquillo se ascoltano le mie telefonate gli americani piuttosto che mia suocera. Questa non è male. Pietrangelo, a proposito dei tuoi salamini, dove siamo? Salamini. C'è stata la Leopolda. E alla Leopolda sono convenuti uomini chic e femmine pittate. C'è stata tutta una bella riunione di personalità meravigliose e affascinanti, e tra queste è stato applaudito l'intervento di Piff, la iena Piff, che ha lanciato anatemi contro Rosibindia, e vabbè, c'è un risvolto politico. Ma soprattutto si è fatta una domanda, e se l'è fatta da siciliano: com'è possibile che Mirello Crisafulli, Vladimiro Crisafulli, abbia preso il 90% dei consensi alle primarie del Partito Democratico nella sua Enna? Semplice, perché Mirello e Mirello sono voti suoi, a differenza di quanto invece le truppe cammellate convocate a Catania da ex clientele democristiane sono andate invece a rinvigorire gli schieramenti dei buoni all'interno del Partito Democratico. E quindi, come dice Mirello Crisafulli, a cui fecero una domanda: vossia preferisce il sistema maggioritario o proporzionale? Disse: o maggioritario, proporzionale, indifferente, io pure al sorteggio vinco. però voglio dire ancora una cosa. Oggi, guardate il calendario, è il 28 ottobre. I quadrumviri, noi in fondo siamo dei quadrumviri che sosteniamo Giovanni Minoli. Quindi no, facciamo insieme. Io, Mario Sechi, sì, Marina Milone. E oggi, 28 ottobre, prego con la musica, è il compleanno di Sara Tardelli. Evviva! E le dedichiamo questa marcia! Nuziale? Marcia! Nuziale! Il 28 ottobre! Il compito... Allora, tornando a temi seri, gli scrive un SMS: il compito dei servizi segreti, punto interrogativo, oltre alle missioni operative, la loro principale funzione è quella di spiare. E quindi di che cosa vi lamentate? In realtà l'opinione è molto interessante. No, è molto diffusa questa cosa. Posso dare un paio di numeretti economici? Certo. Se no quelli che sono patiti di economia si arrabbiano. Sì. Allora, un record volante. Emirates ha fatto un piccolo ordine a Boeing, sta trattando 30 miliardi di dollari di aerei. È una cosa enorme. Sono 100 jet per la flotta che si avvia ad essere la flotta. Quanto hai detto? 30 miliardi di dollari. Noi parliamo aerei. Dell'Alitalia. 100 aerei base a Dubai. Emirates è una compagnia straordinaria. Sì. Altra cosa bellissima, tutti quelli che anche qua amano questo tipo di cose si divertiranno: McDonald's, dopo 40 anni, divorzia da Heinz. Cambia il marchio del ketchup, fine di un rapporto storico. E tutto questo sapete perché avviene? Perché il nuovo amministratore di Heinz, Bernardo Hees, viene dal rivale Burger King. In America queste sono cose serissime. Si annunciano utili record nel quadrimestre per Apple. Vediamo oggi, dovrebbe uscire oggi, trascinati dalle vendite di iPhone 5S e 5C. E diciamo, questi sono tre temi tra curiosità, sviluppo globale e titani di internet che sono da tenere d'occhio durante la giornata. Scusa. Prego. Mario, c'è ancora molto consenso su questa cosa, sull'idea che lui non potesse non sapere, che Obama potesse non sapere, perché anche Kennedy non sapeva di quello che avrebbe compiuto. Saluti Mimmo. Poteva benissimo. Guarda, non sapere. È la controprova Obama. Che il presidente degli Stati Uniti, il presidente americano, non sia in realtà titolare della sua sovranità. Ma dico nella diffusa opinione. Io lo so benissimo. Cioè, che lui... i presidenti degli Stati Uniti passano, la CIA e l'NSA rimangono. Certo, sono certo. loro che gestiscono la sicurezza del paese. Questa è un po' la consapevolezza di fronte a un potere che è assoluto, ma dura 4 anni, esatto. Al massimo 8. E poi è controbilanciato dal congresso. Beh, non è democratico. Democratico, non ma è buono. Pieno di molti poteri. Democratico, ma buono. Assoluto. E poi è bello. Va bene. Dopo la viabilità che dare. Ah, c'è una telefonata al volo. Orazio da Messina. Sì, grazie. Grazie. Io voglio dire solo telegraficamente, Obama sapeva sicuramente, ma se non sapeva davvero, è come Scaiola che gli comprò la casa a sua insaputa. Grazie, questa non è male. Ecco, dopo la viabilità parliamo di televisione di qualità, chiederemo al professor Giorgio Simonelli, professore di storia della televisione alla Cattolica, dov'era il canone ieri sera. Mix 24. Professor Simonelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di dirmi lei dove era il canone ieri sera, rapidissimi, Mario e Pietrangelo. Mario? Ma io ho guardato Lazio-Cagliari, purtroppo abbiamo perso. Pietrangelo? Io ho acceso il televisore, ho chiesto a tutti di accendere il televisore, di sintonizzarlo su Miss Italia, perché era una protesta civile contro il limusonismo del presidente Boldrini, che non vuole la Miss Italia. Ah, va bene, ok. È stato un servizio pubblico di mobilitazione e di protesta. Delle masse. Ecco, invece, professore, parlando seriamente... l'idea butta fuoco, perché anch'io avrei detto... Se nessuno si scandalizza, direi che un po' di canone ieri sera era sulla fetta. Addirittura. È la prima volta che non sono d'accordo con lei e d'accordo con la Boldrini, però quel programma non mi è proprio piaciuto. Fosse di grande qualità, anzi forse era un po' oratoriale. Però la fretta con cui è stata liquidata la questione da parte della RAI, non c'è più Miss Italia, non si fa più Miss Italia senza se e senza ma, insomma, mi ha fatto pensare che questa occasione, questo avvenimento, meritasse almeno un po' più di riflessione. E vabbè, ma professore, questa RAI, se lo fa è perché lo fa, se non lo fa perché non lo fa, insomma non ne fa bene una. Ma no, allora io faccio questo ragionamento. Siccome esiste una Miss Francia, una Miss Svizzera, una Miss Svezia e persino una Miss Finlandia, cioè quei paesi dove del nord, la dignità della donna a tutti i livelli è assolutamente garantita, perché non dovrebbe esistere una Miss Italia e perché non si dovrebbe dare conto di questa manifestazione che in fondo, se gestita con stile, senza volgarità, senza ossessione, perché qui si passa da un estremo all'altro. Prima la RAI faceva una settimana intera su Miss Italia, addirittura con una striscia che cominciava ad agosto, e poi il silenzio totale. Vabbè, quello era un po' troppo, insomma, forse. Una via di mezzo, ragionevole, fatta bene. Vabbè, un altro pezzo di canone non l'ha visto da nessuna parte, professore? Il canone, ieri sera? Beh, ieri sera, sa, per i miei gusti, le mie passioni, la lunga presenza di Arbore a Che tempo che fa, con queste canzoni italiane tradotte in inglese, insomma, era un momento Arbore di gioia, ci ha insegnato a tutti tutto, piacevolezza. Certo, un grandissimo. Senta, e altro? Altri pezzetti di canone? Ma altri pezzetti di canone, se facciamo un passo indietro, fino a sabato c'è stata un'ora e mezza su Fox Sport, il nuovo canale di Sky, dedicata al classico a Barcellona-Real Madrid, in cui per un'ora e mezza prima della partita si è analizzata, approfondita non solo i temi tattici e tecnici della partita con Capello collegato. E quindi Sky Sport è un bel canale di sport. Si gioca alle 18, sì. Con un giro del mondo per vedere come mai la partita si gioca alle 18, perché è l'orario migliore per tutto per il mondo. Certo, naturale. Senta, professore, questa sera va in onda la prima puntata della fiction La forza di un sogno, dedicata alla vita di un grande imprenditore, Adriano Olivetti, interpretata da Luca Zingaretti. Noi abbiamo il telefono Luca Barbareschi, ma prima di fare una domanda chiedo a lei, si aspetta un buon risultato? Mi aspetto una bella cosa, perché il tema è interessante. È bello, importante. È un grande personaggio, e questo è sicuramente uno dei grandi compiti del servizio pubblico, quello di scrivere la storia recente del paese, di cui Olivetti è un grande protagonista. Grazie, incrociamo le dita, speriamo bene. Grazie, professore Barbareschi, che abbiamo il telefono. Quali sono state le difficoltà principali nell'affrontare questo tema e questa grande storia? Ma in questi, io ci ho messo quasi 10 anni, devo dire. La difficoltà più grande forse era che la gente non capiva che si potesse declinare questa storia anche in una modalità generalista, raccontandola con epica, con emozione e con grande passione. Tutti pensavano alla la prima battuta più sciocca, mi fu da cos'è la storia di una macchina da scrivere. Questa è la battuta più infelice. Ma certo, non molto felice, perché un genio come Adriano Olivetti ridotto a quello non era una grande osservazione, diciamo. Però diciamo, poi forse anche una certa così diffidenza verso un imprenditore che sicuramente non è stato dei più comodi in Italia. È stato fuori dal coro sempre, insomma, sempre, perché era avanti e fuori dal coro. Era totalmente fuori, forse anche riflettendo, vedevo in questi giorni varie interviste, nei convegni fatti, eccetera, c'era anche una situazione italiana complessa. Venivamo dal dopoguerra, c'erano dei problemi di aver perso la guerra, la rivoluzione informatica che era dopo quella industriale e agricola la cosa più importante, forse non era permesso che venisse gestita da noi, dagli italiani. Certo, ma a lei personalmente, come produttore ma anche come attore, come sceneggiatore, cioè, insomma come uomo di spettacolo a tutto tondo, della figura di Adriano Olivetti, che cosa personalmente l'ha toccato di più studiandolo per fare la fiction? Ma la cosa che mi ha più toccato è vedere come il modello olivettiano può essere riprodotto anche in piccola scala, anche in una piccola azienda come la mia, dove in fondo siamo solo 20 persone, però dopo, dove le relazioni umane, il rapporto, io ho persone che lavorano con me ormai da 20 anni, anche di più, e è importante per la creatività, per la condivisione delle idee. E cioè il fattore umano è un elemento di arricchimento del lavoro, questo poi in fondo è il messaggio vero di Adriano Olivetti. Io penso che non ci siano grandi idee, ma ci sono sempre grandi persone che lavorano con te, perché una bella idea, se hai lo staff sbagliato, non la porti avanti. Non serve a niente, ecco. Un'ultima cosa, Barbareschi, questa fiction sarà una fiction popolare o no, secondo lei? Ma io guardi, la scelta di Zingaretti, che è una grande star ed certo, è uno straordinario attore, è una scelta mirata, nel senso che aveva bisogno questa fiction di un attore che avesse un grande patto col pubblico. Io mi auguro lo diventi. Noi l'abbiamo, ovviamente il test che abbiamo fatto a Ivrea è stato determinante, perché abbiamo fatto in una sala di quasi 1000 persone e se ed è piaciuto molto, è piaciuto molto e ha commosso, perché vuol dire che la gente ha seguito il lato umano. E ovviamente poi nella seconda puntata, che è quello un po' più complesso, dove c'è certo, la politica e sono tante cose, ormai era è andato va sì, bene. Allora, che c'è il nostro paese. E allora tanti auguri Barbareschi, tanti auguri grazie alla vostra fiction e a questa vera operazione di servizio pubblico. Grazie a lei. Arrivederci. Grazie. Ecco Mario, questa è una scelta forte, quella di sì, raccontare la storia di Adriano Olivetti. Beh, no? Barbareschi ha fatto bene, è una storia esemplare dell'Italia. Solo un rammarico che poi quella rivoluzione industriale informatica l'Italia l'ha dispersa. E domani di questa rivoluzione informatica mancante ne parleremo con Carlo De Benedetti, che è uno che con l'Olivetti ha avuto tanto a che fare. Pietrangelo, le biografie sono il modo migliore per raccontare quel grande romanzo che è la memoria e che è la storia, quindi ben venga. Una curiosità, chissà tra 30 anni, tra 40 anni, tra 50 anni, se mai faranno una fiction con Silvio Berlusconi protagonista. Ma fisso, ma sì, certo, fisso. Chissà, e farà il record d'ascolto. Tu pensa, Bettino Craxi, che era lungimirante, fece il giovane Mussolini con Banderas nel ruolo di Benito Mussolini. Ma oggi cos'è, il 28 ottobre? Va bene. Sì, sì, sì, è compleanno, l'abbiamo detto. Dunque, dopo il giornale radio, torna Mix 24 con la storia, una storia curata come sempre da Marina Milone. Vi racconteremo la storia di Rino Gaetano, perché oggi è il giorno del suo compleanno, per l'appunto. Il cantautore che aveva questa voce ruvida, spontanea, graffiante, un'ironia graffiante, attento ai temi sociali. A seguire un'intervista di Paolo Rossi, che a Sanremo ha interpretato un brano inedito del grande Rino Gaetano.